9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana e buon inizio di mese. Siamo in ritardo di buoni 3 minuti e quindi bando alle chiacchiere iniziali. Oggi è una delle puntate che ritualmente ogni mese dedichiamo con un direttore che scegliamo di volta in volta tra quelli più autorevoli, con il quale approfondire, con un direttore di testata, può essere un direttore di giornale, un direttore di telegiornale o di giornale radio, per approfondire insieme a lui dal suo punto di vista e della testata che dirige le difficoltà della missione di fare il giornalismo in un paese che ha un'economia e una finanza di un certo tipo, diciamo un po' intrecciata, e che ha una politica che da anni, lo sappiamo, lo vediamo tutti i giorni, vive in maniera molto muscolare le sue contrapposizioni, e spesso entrambi questi ambiti, l'economia e la finanza e la politica innanzitutto, chiedono all'informazione di svolgere un ruolo, non dico parallelo alla loro muscolarità, ma insomma spesso sì, e lamentano incessantemente un'informazione o troppo schierata, e quindi sia pur chiedendo di essere schierata, la accusano di essere schierata, naturalmente dalla parte opposta rispetto a quello che politica ed economia vorrebbero, oppure di essere al servizio di non meglio dichiarati interessi. Quindi fare questo mestiere diventa sempre più difficile. Ricordo oltretutto che è una viviamo in un periodo di par condicio, perché si avvicinano le elezioni regionali, anzi oggi è il giorno in cui si passerà da domani dalla prima alla seconda fase della par condicio, e quindi è anche una fase nella quale poi la politica dà le regole all'informazione su come essere più o meno corretti negli equilibri, negli spazi, nei tempi, e tutto questo, questo mio personalissimo giudizio, non aiuta. Ecco, il direttore che abbiamo scelto oggi e a cui sono molto grato di aver accettato l'invito qui a Radio 24 è Bianca Berlinguer, direttore del TG3. Buongiorno Bianca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Bianca Berlinguer è direttore del TG3 da pochi mesi, da ottobre. Prima di chiederti del TG3 e della tua direzione, della tua esperienza, io non faccio domande, lo dico agli ascoltatori, non faccio domande personali sulla storia, la famiglia, il nome di Bianca Berlinguer, perché l'ho dichiarato sempre, è una delle caratteristiche, la sua riservatezza su questo e la sua avarizia di parole che me l'ha sempre resa straordinariamente apprezzabile. Oggi parliamo di informazione e quindi parlo. L'unica domanda che faccio a Bianca Berlinguer è su come nacque, è nata in lei la cosa del giornalismo, e poi perché il giornalismo televisivo, perché aveva iniziato con la carta stampata. È stato un caso oppure è stata poi una necessità, nel senso che davvero ti piacque di più la maniera di fare informazione consentita dal video? Non è la stessa cosa? L'inizio in video è stato assolutamente un caso, nel senso che io avevo cominciato da molto giovane con Il Messaggero. E poi l'inizio in video è stato legato a un casualissimo incontro con Minoli, nel senso che a un certo punto io ho conosciuto Giovanni Minoli dopo pochi mesi che lavoravo al Messaggero, il quale allora faceva mixer ma stava partendo con un nuovo programma che poi in realtà non è mai andato in onda, abbiamo fatto solo due numeri zero, che avrebbe dovuto essere un programma in diretta, e voleva 4 giovani da mettere in redazione per cominciare un po' a rinnovare e a farli lavorare così anche come ragazzi di bottega. Quindi mi ha chiesto se ero interessata a lavorare, allora poi i contratti erano da programmista regista, non come giornalista, e anche perché lui non era testata, per cui insomma, come tutti ricordi ai nostri tempi, c'era il praticantato che doveva essere fatto in una testata. Adesso, senza entrare in queste questioni piuttosto noiose, io avevo 25 anni, lui mi ha detto se è interessata a lavorare con me, io naturalmente ho accettato subito con grandissimo entusiasmo, ho cominciato a lavorare con lui. Ho lavorato con lui per 4 anni e lì ho scoperto che in realtà, diciamo che poi alla fine è andata a finire che ho fatto quasi subito il video, quasi subito la televisione, e non ho più fatto invece il giornalismo scritto, però ho scoperto lavorando con lui che insomma lo strumento televisivo mi piaceva moltissimo, e lì sono rimasta. Minoli è e resta un grande innovatore, se pensiamo in quegli anni, la sua maniera di condurre le interviste, la sua maniera di tagliare sulla faccia, in particolare della faccia dei suoi ospiti, con quello stile così incalzante, con questi servizi che spezzavano il ritmo e lo acceleravano ulteriormente, quindi un grande maestro. Sì, di quella televisione rispetto a quella di oggi, ci sono ancora lezioni oppure è un'epoca chiusa perché era un'altra Italia? Ma guarda, io ti devo dire una cosa, che per me è stato un grande maestro non solo lui, ma è stato molto più possibile per noi rispetto a come oggi per i giovani, questo veramente me ne rendo conto anche quando arrivano da noi le nuove leve, fare come una scuola di giornalismo sul campo, nel senso che noi poi siamo stati mandati in giro a seguire i registi, a imparare come si girava, come si montava, cioè abbiamo fatto una scuola che purtroppo oggi non è assolutamente più possibile fare, non solo come stile giornalistico, ma anche proprio come tirocinio tecnico. Ecco, e perché caso. Secondo te non è più possibile oggi? Perché non ci sono probabilmente anche più quei tempi che venivano dedicati a creare le nuove generazioni. Insomma, noi eravamo quattro che siamo entrati con lui, poi siamo aumentati, quattro ragazzi. Da parte di chi stava in redazione da molti anni c'era proprio l'intenzione di creare una nuova generazione di giornalisti. Mi trasmetta, è stato insegnato certo. Tutto dall'ABC, anche tecnicamente, riguardo all'uso dello strumento televisivo. Oggi mi rendo conto io che è molto molto più difficile, anzi non viene fatto, a cominciare per esempio da una cosa che io considero in televisione importantissima e che viene ormai spesso sottovalutata, può sembrare una stupidaggine, ma invece è molto importante, che è la dizione. Per noi era obbligatorio fare dizione, non si poteva andare in onda se non si era fatta dizione, se non si imparava, come dire, a formulare in un certo modo la lettura e la cadenza di un testo. Oggi invece viene considerata una cosa del tutto irrilevante. Certo. Oh, dopo il TG3. Il TG3 naturalmente è una testata che fin da quando nasce con la riforma della RAI e l'attribuzione delle influenze politiche è una testata particolare. Di solito quando ci sono le schede che ricostruiscono la tua carriera si tende a ricondurti dopo Minoli a Sandro Curzi e alla sua lezione. Ma in realtà perché fu il TG3? Guarda, fu il TG3. Io dopo Minoli devo dire che in realtà ebbi una parentesi di 2 anni a Radio Corriere TV. Nel senso che poi io il famoso praticantato l'ho fatto a Radio Corriere TV, perché Minoli, non essendo testata giornalistica, non avrebbe potuto farmelo fare. E poi fu chiamata da Curzi. Curzi mi chiamò, mi ricordo che andai a fare un'intervista a Biscardi mentre lavoravo a Radio Corriere. Una delle prime interviste che feci, Curzi venne a conoscermi e mi disse però quando finirai magari vedremo, perché sai anche qui come dire siamo alla ricerca di nuove leve. E quando divenni professionista effettivamente lui mi chiamò e mi chiese se volevo andare a lavorare al TG3 e io naturalmente anche lì andai di corsa, nel senso che anche quella fu poi la seconda occasione molto importante della mia vita, lavorare al TG3, e la terza, perché poi ho lavorato lungamente anche, pur stando sempre in una testata giornalistica molto importante, fu lavorare, come ho fatto anche lì per anni, con Michele Santoro. Certo, ma di Curzi resta ancora qualcosa di buono o anche nel suo caso l'Italia è troppo diversa ormai? Ma di Curzi, guarda, dentro il TG3 resta tanto per noi che siamo nati e cresciuti con lui. Perché in realtà è un'intera leva di giornalisti cresciuta sotto Sandro. Sì, cresciuta sotto Sandro, però dobbiamo dire che adesso dentro il TG3 non siamo tantissimi quelli che sono nati e cresciuti con lui, siamo una minoranza, perché poi molti sono andati via, non so, Federica Sciarelli è andata a fare Chi l'ha visto, Giovanna Botteri fa la corrispondente a New York, Corradino Minè, adesso per fare i nomi che più forse tutti conoscono, Corradino Minè è andata a fare il direttore di Rai News, molti sono rimasti, non molti, insomma un piccolo gruppo è rimasto lì al TG3, peraltro adesso non so, anche persone che avevano lavorato con lui e poi erano andate via, come Riccardo Scottoni e Andrea Giubilo, sono tornate a lavorare con me, io ne sono contentissima. Però chiaramente ormai è tutto diverso rispetto a quando Curzi era il direttore del TG3, insomma sono passati tantissimi anni e io dico che di lui ci resta sempre, insomma, la cosa più bella che credo ci abbia lasciato e soprattutto mi abbia lasciato è l'amore, la passione, l'entusiasmo per questa professione e soprattutto la capacità che lui aveva di ricominciare sempre tutto da capo senza scoraggiarsi. Possiamo dire una cosa, io lo dico avendo conosciuto e frequentato per molti anni Sandro Curzi, questo lo dico a chi ci ascolta e magari ha un'immagine e un ricordo di Sandro Curzi come naturalmente direttore verso il quale poi viene coniata la cosa del TG3 e Telekabul, però Sandro Curzi, per chi ricorda come faceva il suo mestiere e ogni giorno poi spesso anche con interventi diretti nella conduzione con commenti editoriali del TG3, se ricorda, ricordate bene, rispetto alla violenza a volte di una parte dell'informazione dedicata alla politica dei tempi ultimi, degli ultimi anni, era, sia pur con un punto di vista sempre dichiarato, ma un maestro di cerimonie, cioè voglio dire una specie di ma è questo che mi ha sempre colpito, è difficile. Ma probabilmente sono anche cambiati i tempi, però no. Ma io non lo so se sono cambiati i suoi editoriali, lui ne faceva moltissimi, insomma, memorabili, credo forse uno a settimana, uno ogni 10 giorni. Però io l'ho detto con uno stile personalissimo, con quella pipa in mano, sì, quella sì, maniera. Come no. Però non erano mai editoriali contro. Questo dobbiamo dargli atto, che non erano mai editoriali contro qualcuno. Prendevano una posizione e davano naturalmente una posizione al telegiornale. D'altra parte il suo telegiornale ne ha prese molte di posizioni. Però io voglio anche ricordare che poi il suo è stato il telegiornale, per esempio, che ha non dico scoperto, perché naturalmente non è che l'ha scoperta lui, però ha capito da subito che la Lega non era affatto quel fenomeno residuale folcloristico, e che invece era un fenomeno politico destinato a una grande espansione, come poi è stato. È stato il telegiornale che ha prestato da subito un'attenzione alla trasformazione del movimento sociale in Alleanza Nazionale, avvenuta poi molti anni dopo, ma lui ha capito immediatamente che qualcosa di importante stava succedendo. Curzi non era un uomo convenzionale, era un uomo di sinistra, ma molto attento a quello che succedeva nella società. E questo naturalmente poi è stato molto utile anche per noi che siamo cresciuti con lui. All'indomani o il giorno prima, non mi ricordo, della tua designazione all'inizio di ottobre, poi hai assunto l'incarico 2 settimane dopo, 2009, la guida del TG3, hai rilasciato una dichiarazione che ti chiederei un secondo di spiegare a chi ci ascolta, perché ovviamente una parte di chi ci ascolta sente TG3 e lo considera una specie di partito organizzato in forma di telegiornale, un'altra parte no, ma ce n'è una parte che lo considera così. La dichiarazione suonava così, testualmente la leggo: io non mi considero una giornalista militante, non lo sono stata mai. Quello, diciamo che ero già stata nominata in commissione parlamentare di vigilanza e poi, poi proseguivi: anche se non vuol dire che non abbia le mie idee, devo dire che mi sono sempre sentita libera alla RAI. Se avessi avuto ambizioni di posizionamento avrei fatto altro, avrei fatto politica, sarei entrata in Parlamento. Rispetto alla storia e alla mission, insomma, di questa testata che nasce in un certo modo dalla storia RAI, si conquista un pubblico, continua, qual è la tua interpretazione, qual è l'obiettivo del tuo TG3 rispetto alla politica ma alla vita italiana in generale? Ma sai, l'obiettivo del mio TG3 è raccontare la politica, raccontare la vita italiana in generale, raccontare la società come cambia o come non cambia, nel senso che poi credo che la missione del giornalista sia questa soprattutto, cioè quella di raccontare quello che succede intorno a noi. Io naturalmente non credo in nessun modo che quello che succede intorno a noi, che sia politica, sia cronaca, possa essere raccontato in maniera assolutamente imparziale. Penso che insomma la cosa più difficile del mondo è raccontare un fatto nella sua assoluta, nella più assoluta imparzialità, perché persino l'incidente stradale, diciamo, può essere presentato in un modo o nell'altro, per dirti un avvenimento che insomma nessuno potrebbe dire che può essere orientato in un modo da una parte o dall'altra, a seconda che tu senta una testimonianza piuttosto che un'altra di quelli che hanno assistito. Noi cerchiamo naturalmente di raccontare la politica, ma anche la cronaca, cercando magari di dare opinioni diverse, di modo che poi il telespettatore possa, guardando il TG3, farsi la propria. Ecco, questo credo che sia poi la missione più importante di un telegiornale. Quanto a me, io non mi sono davvero mai sentita una giornalista militante, anche se ho le mie idee. D'altra parte devo dire che il fatto poi di essere stata eletta all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione mi ha fatto davvero molto piacere, perché credo in questo senso sia stato anche un riconoscimento importante al mio lavoro precedente. Ed è vero che se poi avessi voluto comunque fare politica avrei fatto politica, cioè mi è stato offerto più volte di candidarmi, io ho sempre scelto e ne sono davvero felice di continuare a fare la giornalista. Non è che nella, per così dire, oramai nella lunga continuità storica dai tempi della riforma e dell'assegnazione a reti e testate, più o meno declinazioni diverse della propria missione di giornalismo rispetto alla politica, non è che alla fine però questo senza discontinuità finisce per ingessare un po' il tutto, cioè finisce agli occhi di tanta parte di italiani, al di là di chi poi ci si riconosce in quelle testate e ne costituisce poi lo zoccolo duro degli ascolti, finisce per affibbiare etichette che poi forse impoveriscono l'azienda. Alla lunga non bisognerebbe cambiarla un po' le cose? Sì, bisognerebbe cambiarla, però questo, il rischio c'è senz'altro, questo è fuori di dubbio, bisognerebbe cambiarla, ma questo è un problema della politica, perché è stata la politica che poi ha assegnato ai telegiornali RAI questa tripartizione tantissimi anni fa, insomma quando ero davvero una ragazzina allora, e questa è stata mantenuta fino ad oggi. Questo non significa assolutamente che questa sia giusta o che non debba essere superata. Io sono assolutamente convinta che debba essere superata, ma questa purtroppo non è una questione che possiamo decidere noi giornalisti che lavoriamo in Rai. Oh, e i giornalisti rispetto alle regole più o meno formalmente indurite, ingessate di queste campagne elettorali, secondo me, nella tua esperienza concreta, limitano? Allora, senti, la mia esperienza concreta è quella della par condicio così come l'abbiamo conosciuta fino all'altro, a ieri, perché da oggi entra in vigore una nuova par condicio che non riguarda i telegiornali, perché noi continueremo, diciamo, a usufruire della vecchia normativa, che riguarda le trasmissioni di rete. Allora, per quanto riguarda la vecchia normativa, è chiaro che da adesso in poi, per fortuna la par condicio è in vigore solo nei 45 giorni prima della campagna elettorale, questo ci costringe a noi naturalmente a usare il bilancino, questa volta davvero il bilancino, nel raccontare l'informazione televisiva. Perché normalmente, in una situazione di normalità, quando non c'è la campagna elettorale, non si usa questo bilancino quotidianamente. Nel senso che si cerca naturalmente di stare attenti a tutti, ci sono i dati dell'Osservatorio di Pavia di cui teniamo conto, ma non sono mai dati quotidiani, sono sempre dati che poi vengono riscontrati su un lungo periodo. E questo ci permette naturalmente di essere liberi, perché se un giorno c'è, per dirti, un evento politico, una situazione politica che riguarda molto più direttamente il governo, il centrodestra invece che il centrosinistra, noi diamo più spazio a quella situazione e viceversa. Cioè, non è che se PDL non presenta la lista nel Lazio si può fare un servizio in cui si spiega che non si presenta e poi non la si fa presentare per converso anche al PD. Faccio l'esempio concreto per chi ci ascolta, perché sennò ci ridurremmo veramente al ridicolo. Darò poi dopo la ripresa, dopo un minuto di due minuti di pubblicità, io do un mio giudizio sulla par condicio. Io da oggi non potrei quasi più dire niente, se non facendo grande attenzione a non citare sondaggi, articoli, qualunque tema che sia riconducibile alla politica. Molto complesso in Italia andare avanti settimane senza fare questo. La mia opinione è che è una camicia di nesso terribile. Tra l'altro, cari ascoltatori, noi praticamente non potremo fare dibattiti su nessuno delle grandi regioni italiane in cui si vota, perché le modalità sono tali che basta che uno dei candidati dica no, per cui noi violeremmo il regolamento esponendo l'azienda. Quindi l'azienda ci ha pregato di essere molto attenti e questa sarà, secondo me, la lezione, cioè un impoverimento della maniera nostra di fare informazioni. Ovvio che non tutti i candidati vengono in fila, ma non potremmo farlo neanche con coloro che vengono. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando delle difficoltà e della missione, degli obiettivi di fare giornalismo oggi in Italia. Ospite oggi è il direttore del TG3, Bianca Berlinguer. Senti Bianca, nella tua esperienza quotidiana, pochi mesi, ma insomma anni poi all'interno del TG3, quanto rompono le scatole i politici nella quotidianità a chi è in testa a un TG pubblico per dire facciamo così, facciamo cosà, parliamo di questo, non parlare di quell'altro? Ma insomma, devo dirti, sono pochi mesi, perché in realtà io davvero sono direttore da 4 mesi, però almeno per adesso non sembrerà strano, ma non ho avuto pochissime rotture di scatole, pochissime telefonate, pochissime pressioni, pochissime segnalazioni, secondo me anche un po' legate al fatto che io sono molti anni che sto al TG3 e quindi naturalmente conosco la redazione molto bene, conosco quella situazione benissimo, anche le scelte per esempio di vice direzione le ho fatte in totale autonomia. Venendo dalla RAI, da dove lavoro da 25 anni, insomma credo che questo mi abbia avvantaggiato. Quanto Poi dicono tutti che ho un caratteraccio, forse quello mi aiuta. Ma io questa cosa del caratteraccio non... Ma posso farti una domanda? La cosa del tuo caratteraccio, la cosa nasce? Perché cioè poi sembri poi una... Non è vero, ma comunque ecco, dico in questo caso forse... No, ma ti chiedo, perché poi sei molto dura nei rapporti personali? E questo è il punto? No. No, non sono molto dura, però magari ecco, in alcuni momenti lo sono anche senza accorgermene. Se poi ci sono delle situazioni in cui magari accedo, sono anche pronta a scusarmi subito dopo, ecco, sono abbastanza intransigente, ma questo anche con me stessa, e quindi essendolo con me stessa magari certe volte non me ne rendo conto, lo divento anche con gli altri. Ma il fatto che ci sia una continuità di indirizzo, per così dire, non rende poi alla fine quella rete e la testata che guidi oggi un pochino un'isola a parte rispetto alle altre due che invece hanno vissuto molto più frequentemente alternanze dovute alla politica e quindi colleghi organizzate in cordate, in contrapposizione per direzione, vice direzione e così via, oppure in realtà è molto più simile di quanto non sembri? Da fuori a me sembra così. Questo è vero quello che tu dici, perché da noi per esempio non c'è mai stata la cordata, nel senso che il TG3 non ha mai avuto, come invece avviene negli altri telegiornali, cordate che si contrapponevano, cordate interne naturalmente, sto parlando di cordate interne che si contrapponevano tra di loro, come invece è successo molto più frequentemente nel TG1 e nel TG2, anche perché noi siamo nati dopo. E quindi questo in un certo senso ci ha avvantaggiato, nel senso che la storia del TG1 è molto più lunga della nostra. E siamo nati dopo, siamo stati insomma tutta una generazione che ormai è diventata la generazione dei vecchietti, insomma dei cinquantenni, abbastanza compatta internamente. Questo non ha significato naturalmente che non ci fossero conflitti e scontri anche da noi, però ci ha risparmiato, e questo è stato molto importante secondo me per la vita del TG3, che è una redazione piccola e che è sempre stata anche molto più debole, ma debole dal punto di vista proprio dell'azienda, nel senso che a noi è stato concesso sempre molto meno, anche come mezzi, come soldi, di quello che è stato concesso agli altri. Questo però ci ha avvantaggiato, il fatto di non dover comunque dividerci in cordate interne che si contrapponevano, perché poi per esempio ogni volta che c'è stato un problema anche nostro di sopravvivenza intendo naturalmente appunto di taglio di risorse, siamo stati sempre molto compatti nel difenderci. Ma l'avvicendarsi di diverse leadership con caratteristiche politiche e personali molto forti e molto diverse tra DS poi fino al PD, il PD maggioritario, quello che invece dice no, Veltroni e così via, e diverse leader, insomma tanti, da D'Alema, Fassino, Veltroni e così via, questo quanto ha pesato? Ma secondo me non ha pesato molto, non credo che questo abbia pesato molto. Io peraltro sono arrivata a dirigerlo, perché in questo senso è chiaro che è molto diverso essere direttore o conduttore, perché il conduttore, anche se è vero che anche, tra l'altro il conduttore di telegiornale è ben diverso da quello che può essere il conduttore di una trasmissione, questo diciamolo subito con molta chiarezza, e io forse l'esperienza di conduttore l'ho fatta soprattutto quando ho condotto Primo Piano piuttosto che quando ho condotto il telegiornale, e questo insomma, quando io sono arrivata a diventare, a essere direttore, era proprio il momento del passaggio, cioè si stava per, credo, il voto delle primarie, eravamo proprio vicini, esatto, al voto delle primarie, il passaggio da Franceschini a Bersani. Sì. E quindi sono diventata direttore però in una situazione che si stava consolidando di fatto, cioè nel senso ho preso solo gli ultimi 20 giorni di grande incertezza, quelli del passaggio, e poi sono diventata direttore con un nuovo segretario, e questo forse ha fatto sì anche che finora mi sia capitato quello che dicevo prima, che essendoci una situazione abbastanza lì di stabilità in questo momento, non ci siano interferenze. Certo. Allora, rispetto al nostro lavoro. Prima qualche telefonata. Mirko da Vicenza, prego. Mirko, dica. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere, in qualità di direttore del TG3, al signor Berlinguer, se può commentare il modo in cui è stato presentato la prescrizione del processo Mills dal TG1 di Minzolini. Cioè, lei fa una domanda scorretta per definizione, non perché non capisca mia Mirko che la sua curiosità, però mi metto io nei panni, perché da ospite devo fare un po' quello che poi le buone maniere. Lei capisce che non è che possiamo chiedere addirittura una testata di chiedere. Io le giro la domanda, ma per così dire con un po' di imbarazzo. Bianca, prego. Però io, come dire, in questo senso sposo la tua cara risposta. No, ma non posso che fare così. Ovviamente noi apriamo il microfono e arrivano le telefonate, però ragazzi, qui non si tratta di essere diplomatici, si tratta di rispettare il lavoro degli altri. La RAI, come tutte le aziende editoriali, è un po' particolare, ognuno ha il suo stile, rispondere quello che fa. Ecco, questa è la mia opinione, non credo che Bianca Berlinguer, comunque se vuole dire altro può dirlo sempre in ogni occasione. Come ovvio, io non mi metto a fare domande, no, su Menzolini oppure su cosa pensa il TG2 o di il GR1. Comunque sono miei colleghi, ecco, di direzione, per cui diventa un po' sgradevole mettermi a commentare quello che dicono o che non dicono. Ma anche perché la mia opinione è che in generale, se dovessi dirvi, cari ascoltatori, l'informazione che considero più militarizzata, io vi stupirei, ma non direi quello della RAI, perché la RAI è un problema, che è un servizio pubblico che paghiamo tutti, e questo sono d'accordo. Invece la domanda che faccio a Bianca Berlinguer è un'altra. Rispetto alla militarizzazione, secondo me molto più forte nella carta stampata e da 10-15 anni ovviamente, con il berlusconismo, ma soprattutto negli ultimi 5-6 anni è arrivata a livelli molto pesanti di militarizzazione. Sto parlando di due parti contrapposte, ma insomma c'è stata una recrudescenza in quest'ultimo anno e mezzo, anche nella maniera di testate del centrodestra, di mettere nel mirino giornalisti, vicende, personali, cioè come dire, ci avete rotto le scatole visto che ci fate la guerra, a questo punto ce la prendiamo con le persone. Di fronte a questo, quando c'è una testata del servizio pubblico come il TG3, voi in qualche maniera cosa fate di fronte a questa militarizzazione che c'entra? La guardate con distacco, continuate come prima, oppure ogni tanto bisogna rispondere e sporcarsi le mani, per così dire? Ma sai, militarizzazione come quella che c'è nella carta stampata, noi credo come quella che c'è stata nell'ultimo anno nella carta stampata da una parte e dall'altra, come dicevi tu, credo che in Rai non ci sia stata mai, perché poi appunto in questo senso conta l'essere un servizio pubblico, ma secondo me conta anche molto l'essere televisione, nel senso che la militarizzazione che è possibile in un giornale dal punto di vista proprio tecnico non sarebbe possibile per quanto riguarda ma su questo Bianca, proprio su Rai 3 parlavamo di Santoro per esempio, un altro che viene dalla scuola Curzi e così via, e l'accusa che invece fa il mondo moderato e chi considera le trasmissioni da molti anni di Santoro è quello invece di aver inventato, teorizzato e realizzato anche poi con maestria, con abilità tecnica e infatti con ascolti che di volta in volta gli cambiano posizione nelle reti eccetera eccetera, e lui se li ripiglia molto forti, quindi evidentemente bravo, ma una tecnica di militarizzazione delle opinioni televisive. Non ti chiedo un giudizio su una cosa, io ho lavorato con Santoro e Santoro forse anche se fa la militarizzazione è attaccato da destra ma anche da sinistra. Ah certo. Cioè secondo me il grande pregio di Santoro e che poi lui in questo senso non guarda in faccia a nessuno, cioè non è uno che poi militarizza l'informazione solo da una parte, se lui ritiene che sia giusto la militarizza anche dall'altra. Tra l'altro l'ultima polemica che c'è stata secondo me, che è stata diciamo la polemica, insomma adesso non so se tutti hanno seguito ma tu sicuramente conoscerai, la polemica che riguarda appunto Travaglio, certo, Santoro, lo scambio di lettere, dimostra proprio questo. Sì, sì, non c'è dubbio. Perché lui poi da questo punto di vista fa un tipo di informazione... sembrava quasi diventato per 48 ore l'idolo di alcuni giornali del centrodestra, vuol dire, finalmente abbiamo trovato il castigamatti di Travaglio. Ecco. Esattamente, questo però è Santoro. Io ho sempre detto che poi la cosa che io ho sempre apprezzato di Santoro, a parte il fatto che dal punto di vista appunto della televisione la conosce davvero perfettamente, mi ha insegnato tantissime cose, e che lui è uno comunque libero. Io devo dire la verità, però io non so voi in ascolto, però io vedere la Berlinguer ha ricevuto critiche durissime, non le diceva ancora. Cioè io dico solo che esiterei a dire che ha insegnato moltissimo a te, perché io ti associo a una conduzione magari freddissima e di poche parole, mentre lì vedo calore, passione, sono proprio due misure allora, diverse. Mi ha insegnato nel senso del girato, ecco. Ah ecco, appunto. Che comunque nella cura, nella scelta, nell'importanza delle immagini, mi ricordo quando lavoravo con lui, andavo a girare delle cose, tornavo, le montavo, lui veniva e diceva taglia qui, taglia lì, mi arrabbiamo moltissimo, diceva no, io quello non lo tocco assolutamente, non si discute, e poi alla fine dovevo dire che aveva sempre ragione lui. Perché in effetti poi se uno va a vedere l'evocatività dei servizi con i quali lui spezza le sue trasmissioni, creano un'atmosfera ancora di più rispetto a quella poi che c'è in studio. Mauro da Roma, prego Mauro, che cosa... Sì, buongiorno. Prego, dica. Buongiorno, senta, rimanendo con il tema di servizio pubblico e quindi di soldi pubblici, volevo sapere dalla signora Berlinguer se ritiene giusto che i giornali grandi e piccoli ricevano soldi pubblici con finanziamento pubblico, e soprattutto io mi riferisco a tutti quei giornali che magari si nascondono dietro a dei partiti praticamente inesistenti, inventati comunque, che non rispondono alla realtà, però ecco, ricevono soldi, tanti soldi. Domanda chiarissima, Mauro. Eccoci tornati in studio, ci eravamo fermati sulla domanda di un ascoltatore sui contributi pubblici alla stampa. Senti, allora, i contributi pubblici naturalmente sono importanti, perché senza soldi si ridurrebbe poi la pluralità delle voci e naturalmente più ce ne sono e meglio è. È vero però, c'ha ragione il nostro ascoltatore, che ci vuole più rigore nel decidere a chi dare i soldi, perché alcuni sono dei trucchi, un vero e proprio imbroglio, quindi ci sono alcuni giornali che hanno un ruolo importante come il Manifesto, come l'Opinione, altri invece sono un vero e proprio falso, e quindi non è giusto che ricevano comunque soldi pubblici. E devo dire che io sono molto d'accordo, e credo anche che il problema è che i grandi gruppi editoriali, qui dico una cosa delicata perché ovviamente il gruppo editoriale che edita anche questa radio ovviamente ha i contributi diretti, non spetta a me dare giudizi, però insomma io quando ho lavorato nelle testate varie e diverse che avevano contributi eccetera, ho sempre fatto questa battaglia, perché la mia opinione è che i grandi gruppi editoriali, quelli privati eccetera eccetera, secondo me in Italia è vero che in Europa comunque esistono regimi di sussidi diretti e indiretti, quelli indiretti sono le tariffe postali e così via, però la mia opinione è che in Italia si esageri da questo punto di vista. La libera stampa privata deve essere in grado di sapere stare sul mercato con prodotti in grado di avere clienti e consumatori tali da essere convinti e sostenere i bilanci. Solo così si può fare un'informazione meno dipendente, per così dire, e impropriamente dipendente, perché poi questi grandi gruppi hanno davvero bisogno di queste cose indirette. Sì, lo so che in questo momento la mia azienda mi tirerà le orecchie, però è una battaglia che ho sempre fatto e continuerò a farlo. Cosa diversa è, ripeto, cosa diversa è il servizio pubblico televisivo, lunghi anni di battaglie per riformarlo, poi alla fine la politica però non lo ha riformato, e su questo ha ragione secondo me Bianca Berlinguer, non ce la possiamo prendere con i giornalisti. Purtroppo diciamo che non l'ha riformato perché non ha in questo momento interesse a riformarlo, non ha avuto, non in questo momento. Il problema è che la televisione bianca è diventata, per una ragione o per l'altra c'è sempre una ragione per non riformarla per la politica, è ovvio che da quando poi da 15 anni c'è una particolare condizione politica, per così dire, e quindi c'è il titolare, le imprese private contrapposte, cioè impegnato in politica, è ancora più intoccabile. Però in realtà, tra l'altro, lì il vero problema è che non c'è stata riforma di sistema, questo è stato il vero problema. Esattamente. Se ci fosse stata avrebbe coinvolto in un modo o nell'altro anche la RAI sarebbe stata costretta comunque a modificarsi. Ora, 15 secondi per dirvi, cari ascoltatori, che mi state bombardando di messaggi, do atto che oggi ce n'è un 25% che non sono durissimi, ma un 75% che sono durissimi. Da chi mi accusa del TG3 bisogna avere due anelli al naso per fare queste domande, a dire però ci sono i lettori della Lega che dicono che il TG3 è quello che guardano più spesso, è anche quello locale perché apprezza l'onestà intellettuale, altri dicono che chi ha insultato per anni Emilio Fede non può trattare così bene il TG3. Io non ho mai insultato Emilio Fede, non so di che cosa stiate parlando. Cari ascoltatori, vi devo fare notare che la media dei vostri sms testimonia un altro fenomeno: la militarizzazione del pubblico, che secondo me spiega anche perché poi chi militarizza l'informazione è premiato. Se dovessi dare un giudizio, Bianca, su come il pubblico è cambiato da quando conducevi semplicemente ad adesso che lo dirigi, che sensazione hai? Che hai ragionissimo, cioè c'è stata una militarizzazione del pubblico, questo è assolutamente fuori di dubbio. Non so, per esempio, adesso per dirti una cosa, io ho ricevuto anche lettere quando ci sono stati gli editoriali di Minzolini che dicevano: allora se Minzolini fa quegli editoriali anche lei si deve mettere in video a fare editoriali di quel genere, cioè sembra come se la risposta dovesse arrivare da noi, dal TG3 e dal direttore del TG3. Questa è purtroppo una cosa che dispiace, ecco, che ci sia stata questa militarizzazione del pubblico, che magari dice benissimo, siccome voi siete un telegiornale che insomma così è, come area di riferimento naturalmente la nostra è più a sinistra che a destra, quindi dovete dare un certo tipo di informazione, un certo tipo di risposta, e magari ci chiede di essere più parziali e più faziosi su una serie di situazioni. Insomma c'è una situazione di ansia collettiva che poi riguarda anche chi usufruisce poi dell'informazione, e sicuramente questa si è molto accentuata negli ultimi anni, questo senz'altro, insomma rispetto a quando io lavoravo con Cursi non c'è paragone, però questo secondo me si è accentuata anche perché purtroppo è il prodotto della militarizzazione della politica, e questo è il discorso, cioè ma come si è legata spezza direttamente a quello, quando c'è una militarizzazione della politica per cui da una parte ci sono, non c'è l'avversario ma c'è il nemico, è chiaro che questo ha anche un riscontro nel paese, ha anche un riscontro nell'informazione, è inevitabile. Senti, posso chiederti nell'economia e la finanza se l'impressione, ovviamente facendo un telegiornale i temi sono più di impatto quelli della cronaca, poi quelli della politica, un po' meno l'economia e la finanza, ma i poteri forti si fanno vivi, cioè le grandi banche che sono quelle poi due, insomma è quasi solo una oramai, ma quelle si fanno vive, chiedono, si fanno via col capo dell'economia, come funziona? Mai, assolutamente mai, Cioè, nel senso che almeno rispetto al TG3, poi questo non so dire naturalmente rispetto agli altri due o tre giornali, comunque l'interferenza dei poteri forti rispetto alla televisione o perlomeno al TG3 è assolutamente inesistente. Beh, qui allora siete proprio un'isola, perché la mia esperienza quella è diversa, io ho preso tante di quelle botte. Credo che in questo davvero ci sia una differenza tra televisione e giornale, ma perlomeno direttamente, ecco, mai direttamente. No, ho capito cosa dici. Mentre credo invece... in questo davvero sia un altro mondo. Mi spieghi perché l'impressione negli anni è stato quello che voi date alla politica internazionale, un peso che nelle grandi testate popolari di informazione pubbliche è tradizionalmente maggiore, cioè c'è una grande attenzione nei programmi di approfondimento, comunque anche nel telegiornale e così eccetera. Questo da cosa dipende? È una particolarità del pubblico che poi... La politica internazionale, noi veramente lì cominciamo con Curzi quando facciamo quel telegiornale Roma a New York, buonasera Roma, buonasera da New York, molta attenzione diamo agli Stati Uniti, moltissima, noi abbiamo praticamente quasi tutti i giorni un servizio che arriva dagli Stati Uniti, e anche se non è facile poi dare molta attenzione alla politica internazionale in televisione, perché poi quando vai a vedere gli indici di ascolto, in realtà quello che interessa moltissimo il pubblico è la politica, ma è soprattutto la cronaca poi è il settore più, io dico che il cuore del giornale è quello dove tu vedi che comunque l'indice non scende mai. No, ma anche perché poi direttore, qui per cronaca oramai poi intendiamo anche insomma l'impatto delle indagini giudiziarie, cioè insomma la cronaca è diventata spesso una cosa in cui la nera è quasi sempre oramai di nuovo magistratura. Tocca rifare la domanda classica che ci fanno sempre noi giornalisti: rispetto a Tangentopoli cosa vedi? Meglio, peggio, più profondo, più esteso, diverso, oppure proprio un'altra cosa? Ma io vedo sinceramente diverso, anche se è ancora presto per dirlo. Insomma, i giudici che abbiamo sentito in questi giorni dicono, come dire, la corruzione c'è sempre stata, ci sarà sempre, non finirà mai. Il problema, come al solito, è della politica che non ha saputo darsi delle regole per arginare la corruzione, la richiesta di tangenti. Mi sembra che comunque ci sia reazione, ecco. Allora lì si parlava di un sistema generalizzato che di finanziamento illecito di un ai partiti e alle correnti, ma la domanda ai è alle correnti. Adesso non so se poi, come dice Fini, peggio oggi rispetto allora, perché perlomeno allora si rubava, insomma, si prendevano soldi per i partiti, oggi no. E tu come la pensi su questa cosa? È più o meno grave il fatto che si prenda per sé o prendere per un partito una corrente? Ma io penso che sia grave comunque, sia molto grave anche che si prendano i soldi per i partiti. Esatto. Non mi sembra di dire che comunque se uno li prende per se stesso è più grave che invece se li prende per il partito. Nel rimettere un po' a posto le cose, questo comunque inquina la democrazia, il fatto di prendere soldi per i partiti. Ma nel rimettere un po' a posto la RAI, la politica non l'ha mai fatto, i manager della RAI sono poi scelti dalla politica. Servirebbe che facesse un giorno manager con pieni poteri per 2-3 anni in RAI qualcuno che viene da una lunga militanza giornalistica in RAI, o è meglio di no? Ma sai, questo non te lo so dire, perché manager con pieni poteri, da questo punto di vista la RAI è sempre un mondo a parte, cioè è difficile stabilire poi, finché non lo si vede proprio sul campo, se un giornalista con pieni poteri potrebbe far meglio forse rispetto all'informazione, perché è una cosa che conosce direttamente, però poi l'azienda, la RAI è una grandissima azienda che non ha solo l'informazione. Quindi tu dici, a scegliere Sanremo non ti ci vedresti? Soprattutto di altri programmi, per esempio, non so, fondamentale è Sanremo, se Sanremo va male è un disastro per tutta la RAI gli anni in cui va male. E quindi tu dici, il Sanremo di Bianca Berlinguer è meglio non vederlo? Dici. No, credo che mi piacerebbe molto cambiare completamente, ma non ne sarei assolutamente all'altezza. Ma io questo non lo so, però comunque. Ogni tanto, sai, nella vita si immagina di vivere altre situazioni completamente diverse rispetto a quelle che hai vissuto, ma credo che non ne sarei capace, e lo dico con dispiacere. Hai mandato qualcuno deluso in questi mesi, non voglio sapere nomi eccetera, dicendo guarda, ti cambio perché non vai proprio bene a fare questa cosa? Beh, insomma, sì, l'ho fatto, ma cercando così di farlo lavorare di meno rispetto a come lavorava prima. Va bene, senti. Perché ritenevo appunto che poi il suo modo di lavorare non andava bene per il telegiornale che avevo in mente, che cerco un po' di, naturalmente tutti cerchiamo di differenziarci rispetto a quello che c'era precedentemente. Io ti devo ringraziare, il bilancio della puntata per gli SMS che vedo è questo: messaggi personali rivolti al direttore di G3 tutti a favore, messaggi personali rivolti a me in larga misura di bocciatura, perché non l'ho messo sotto i piedi, non lo volevo fare, non l'ho fatto, non lo faremo con tutti i colleghi una volta al mese. Grazie a Bianca Berlinguer, l'appuntamento con voi a domani. Grazie in regia a Pippo Oreggi e Alessandro Marco Turni in redazione. La linea a Giornale Radio, a domani.